Rieccoci qui e continuiamo a leggere degli articoli che ho trovato sulla fortuna, appunto. In questi articoli viene molto spesso ribadito il fatto che la comunità scientifica abbia avuto un atteggiamento molto, come dire, molto scettico nei riguardi della fortuna, in quanto è veramente un fenomeno molto difficile da riprodurre in laboratorio. E infatti nessuno è stato in grado di mettere appunto un sistema che potesse riprodurlo. Ed è il risultato soprattutto come se fosse un problema insormontabile, in quanto nessuna istituzione scientifica dispone di fondi molto grandi per poter studiare una fenomenologia di questo genere. Quindi, soprattutto adesso nel periodo in cui vengono tagliati i fondi alla ricerca, figuriamoci se qualcuno sia interessato a finanziare uno studio sulla possibilità di studiare la fortuna in laboratorio. Una maggiore apertura mentale, però, potrebbe aprirci una realtà molto affascinante da questo punto di vista. In fondo, la fortuna esiste sin da quando l'uomo ne ha memoria, cioè da sempre, ed è interconnessa alla natura intrinseca dell'universo. Questo vuol dire che è una natura all'interno della quale l'uomo trova il suo agire e di cui fa parte. Si parlava infatti, poc'anzi, della sincronicità. La fortuna è uguale alla psicocinetica individuale potenzialmente creatrice degli eventi sincronistici. La sincronicità può essere definita una serie di eventi apparentemente scorrelati l'uno dall'altro, ma connessi attraverso un'agenda nascosta. La moderna ricerca sulla teoria delle superstringhe indica che ci potrebbero essere ben 10 piani di esistenza. Quindi, ben al di là delle quattro dimensioni con le quali interagiamo quotidianamente. Prove matematiche sull'effettiva esistenza di queste 10 dimensioni ci sono e molti fisici quantistici hanno cominciato a dare il giusto rilievo scientifico alla teoria delle superstringhe. Quindi, effettivamente, c'è uno studio di base. In virtù di quanto detto poc'anzi, continua l'articolo, possiamo spingerci un po' più in là e affermare che l'agenda segreta che regola gli eventi sincronistici appaia più comprensibile, trasparente, meno misteriosa, meno criptica se la collochiamo in una o più di queste 10 dimensioni. Per contro, se facciamo un passo indietro e ritorniamo a guardare le cose dall'alto delle nostre 4 dimensioni, tutto di ridiventa opaco, indecifrabile e incomprensibile. Ci sono piccole e grandi differenze pratiche che ci inducono a riflettere sul fatto che quando un mindset subconsciente è modificato per incoraggiare eventi ESP, gli elementi sincronistici possono essere selezionati per creare eventi ESP riproducibili nella nostra realtà quotidiana. Ciò che è stato provato, tuttavia, è che il mindset di una mente subconscia di una persona possa influenzare attraverso l'interazione ambiente che lo circonda. Quando questo fenomeno accade, la persona che ha vissuto l'evento allude ad una botta di fortuna. Quindi, se si riesce a influenzare in qualche modo l'ambiente circostante, noi abbiamo la fortuna. Quindi c'è dell'interazione tra la mente subconscia, il subconscio è quella parte che noi conosciamo solo a metà, e che sta appena sotto la superficie, e l'ambiente in cui esso si trova, si parla di fortuna. Fino ad ora, dice l'articolo, abbiamo studiato che l'unico modo per aumentare la nostra dose di fortuna consiste nell'installare suggestioni semi-ipnotiche all'interno del nostro subconscio, nel tentativo di emulare i Gastone Paperone che tutti noi conosciamo. Così è, l'uso di questi programmi di riprogrammazione del subconscio in alcune persone tendono a produrre, ad evocare eventi sincronistici di tipo positivo. O almeno così si credeva. La domanda che in tanti si sono posti nell'osservare persone dalla fortuna spacciata è questa: come fanno ad attirare sempre e solo esperienze positive? Io penso che questa domanda ce la siamo fatti in molti, avendo di fronte determinate persone. Inoltre, dice l'articolo, l'uso dei programmi citati potrebbe non essere alla portata di tutti e per diversi motivi, reperibilità, costi, poco tempo per eseguirli, senza dimenticare che vivendo in un mondo dove si vuole tutto e subito, la fretta, lo stress potrebbe rendere questi programmi inefficaci. Detto questo, ci siamo preparati il terreno per rispondere ad una domanda che molto probabilmente vi starete già facendo tutti voi. Esiste un metodo per attirare la fortuna, ma che sia facile e divertente da eseguire? Su questa domanda io vi lascio ad una nuova pausa musicale, restate ancora con noi perché saremo addirittura d'arrivo per poter parlare e per poter chiudere appunto questa puntata di Sulla linea d'ombra.